La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Avanti, su, così. Y, M, C, e fallo, avanti tutti, su, sulle mani. Scusate, ma ho una persona davanti e non vuole obbedire. Avanti, su, a tempo di musica, pronta? Y, M, C, E, brava, brava, brava, adesso, basta così, abbiamo finito. Riposate di 20 secondi, ecco, abbiamo creato un'atmosfera da villaggio vacanza oggi perché dobbiamo parlare di una cosa fondamentale alla bella estate. Il tema di oggi è come siamo pazzi, o anche come siamo pazze, anzi come siamo pazze, perché oggi ho un ospite che mi parlerà proprio della pazzia dal punto di vista femminile. Benvenuta a Marta Cagnola. Ah, sono assolutamente pazza a essere qui oggi e non so cosa succederà nei prossimi 40 minuti, però sono pronta a tutto, Tommaso. È la prima volta che sei ospite in un mio programma dopo che io sono stato ospite tuo un'infinità di volte. Sì, ma tu a casa mia vieni troppo spesso. Beh, quello sì, quello, ecco. Soprattutto da quando ho imparato a arrivare senza navigatore. Ecco che è una cosa molto difficile da fare. Allora, perché c'è Marta? Perché deve proprio introdurmi nei misteri della pazzia. L'estate, non so, le persone impazziscono, diventano selvagge, diventano così scatenate e il grido è sempre come siamo pazze, abbiamo fatto luna in discoteca, luna, mi raccomando. Perché? No, inutile, mi guarda, la nostra solita redattrice Claudia che deve sempre contraddirmi, dice ma come luna? Sì, dicono proprio questo, abbiamo fatto luna, sai, a casa vanno a dormire dopo la Cuccarini alle 9:30, quindi fanno luna in discoteca quando lei praticamente arriva. Quando lei arriva è anche una questione generazionale, ma non perché cambino le abitudini da una generazione all'altra, ma proprio perché noi alla nostra età non ce la facciamo più granché, poi loro sono più giovani e arrivano più tardi, ecco. Allora, questo è l'ospite più breve nella storia della radiofonia italiana, vattene, perché insomma non cominciare a coinvolgermi in queste cose di vecchiaia. No, va bene. Qui non abbiamo età, qui siamo tutti uguali, ecco. Però su YouTube, se voi digitate come siamo pazze su YouTube, appaiono delle mostruosità e io te ne ho scaricata una, non si sente benissimo, però si percepisce. Ciao, c'è qualcosa alla telecamera? Quanto è bello, quanto belli i calciatori. Anche a Natasha. No, mi piace bello. Aspettate, ma mi hanno Dave. Lei Dave. Sì, Dave. Allora, queste, carissima Marta, ti descrivo il video. Sono tre, come posso usare un termine, cosa diceva il Boccaccio? Tre cozze, ma proprio cozze. Una cosa terrifica. Ce n'è una, quella che dice come sono belli i calciatori. Ha una pancia... Ma io voglio diventare amica di Natasha, le sue amiche, loro. Oh Natasha, eccetera. Esatto, già la sappiamo, non la cantiamo in pubblico. Sono quelle canzoncine appunto da pazzia estiva. Però sai, la pazzia in realtà, sai cos'è? È una disobbedienza, in fondo. Tu devi disobbedire a quello che sei normalmente e si comincia sin da piccoli a essere disobbedienti. Noi abbiamo un'amica particolare qui alla bella estate che si chiama Vladimir Luxuria, la conosci? Certo. Ci ha mandato delle pilloline di saggezza e ogni tanto ne faccio sentire una. Sentiamo come era disobbediente Vladimir quando era piccolo, perché ai tempi era ancora piccolo. Allora mi ricordo comunque che c'era questo orario, generalmente verso mezzogiorno e mezzo, ci si preparava a pranzare. E allora i bambini, e se non ci si andava soltanto una volta la domenica, stavamo dentro l'acqua e proprio non si pensava proprio di uscire. E allora tu vedevi lungo tutta la spiaggia tutte queste donne con i costumi interi ovviamente, con le mani ad anfora, cioè messe sui fianchi, che guardavano all'orizzonte i figli, e a un certo punto scattava l'ordine del rientro e cominciavi a sentire con i suoni tipici della nostra terra: «Ischefer, disgrazie, ischefer, mo chiama pate, tamma magna!» E uscivano e gli si diceva: «Attento, che ti sporchi con la sabbia!» Oppure queste frasi tipo: «Non andare in acqua che ti bagni!» No? C'erano un po' queste cose. disobbedienti questi bambini. Tu eri così da piccola? No, io ero saggissima, non disobbedivo mai, ero molto studiosa, molto brava e molto disciplinata. Si è rovinata col tempo, si è rovinata col passare. E ho sempre fatto enormi pazzie di nascosto, che è la più grande soddisfazione di tutte. Ma le pazzie si fanno di nascosto, però io, oltre a sapere, a voler sapere le tue pazzie, voglio sapere le pazzie di chi ci ascolta. 800 24 0024 per raccontarci quanto siete stati pazzi l'estate scorsa, due estati fa, 30 anni fa. Raccontateci le vostre vere pazzie, ma appunto siamo stati in discoteca fino all'una, ci siamo bevuti 3 Coca-Cola una dopo l'altra, queste cose, non certo abbiamo ucciso una vecchietta, anche se sarebbe divertente però. Beh, però forse in radio non si può raccontare. In radio si può fare di tutto, abbiamo fatto di tutto qui. Ne ho sentite alcune, effettivamente. Sì, le ho sentite. A volte gli ascoltatori sono un po' così, ma è arrivato un momento ancora di ballare. Sei pronta? Ci sono, allora, sono pronta. Su con la gamba, via. Pronta? Via! L'età è l'età cagnola, la gamba più in alto. Ma era perché mi ero preparata per il trenino, però essendo qua solo noi due non potevamo farlo, dovevamo coinvolgere qualcuno in più. Oggi è il 10 agosto. Mm-hmm. Il trenino si fa il 31 dicembre. Ma no, ma si può fare sempre. Anzi, quelle questa notte pazzie. Lo possiamo fare con il naso in su, aspettando le stelle cadenti tutta notte, perché è un'altra delle follie della vacanza. Dire: sono rimasta tutta notte a aspettare la stella cadente, dormendo sulla spiaggia nonostante l'umidità della notte. Le meduse, certo. Io non dormirei mai sulla spiaggia. Mi fa una paura l'idea. Cioè, arriva Ulisse, arriva chiunque. Ce le ho tutte. Hai dormito sulla spiaggia? Certo. Dai, racconta. Oh, più di una volta, addirittura a un certo punto era diventato un rito delle vacanze. Gli ultimi giorni andavo spesso in vacanza nello stesso posto dove ufficialmente andavamo per studiare, attrezzarci con le coperte, rubare tutte le coperte, metterle da parte e andare a dormire in spiaggia con le coperte di lana, perché chi è esperto di questi argomenti sa che ci vuole la coperta di lana per dormire in spiaggia, perché diventa molto molto umido e insomma poi... Beh no, allora soffre. Se devi fare la pazzia con la maglia di lana stai a casa, cioè la pazzia va fatta senza niente, nudi. Nudi, vabbè, ma ieri, sì. Vaglioni ce l'hai fatto sentire ieri. No, pazzia sì, però la pazzia deve essere fatta per bene. Ho provato a tornare a casa dalle vacanze e confessare candidamente di non essermi tolta le scarpe negli ultimi 3 giorni prima di partire, mai. Perché siete stati sempre in giro senza dormire? Sì, confesso. Ma questo fa male alle rughe, poi... Ma dai, ma ci penseremo quando saremo anziani, dai. Ancora? Cioè, questa ragazza sta esagerando oggi con la storia dell'anzianità. No, ma infatti non lo siamo ancora, a proposito di anziani, avanti. Ti faccio sentire un pezzo musicale che viene da una terra molto fredda e tu dirai perché, te lo spiego dopo, appena l'avremo sentito. A me viene subito in mente il Festival di Sanremo. Perché rubarono. Perché Hoppy Paul venne rubata dal maestro Sabiu per gli stacchetti del Festival di Sanremo. Il maestro Sabiu, che gli venga la vendetta di Montezuma, come diciamo tutti noi fan dei Sigur Rós, rubò proprio questo pezzo di Hoppy Paul e ne fece la sigletta. Però sai perché l'ho messo? Non per Sanremo, perché nel video è bellissimo, perché ci sono questi vecchietti islandesi che compiono delle marachelle un po' infantili, suonano i citofoni, scappano, Verissimo. Si fanno i gavettoni. Allora ho detto questo, e poi anche perché fa parte del mio programma di rieducazione dell'ascoltatore. Più Sigur Rós per tutti, sono d'accordo. Esatto, perché basta con la danza Sigur Rós, no? Come si chiama? Kuduro. Sono decudurizzata. È il mio obiettivo, quindi sto dando ogni tanto delle pillole di musica un po' particolare. È arrivato un messaggio per te, sai? Ho paura. Max dice: io il trenino con Marta lo farei più che volentieri. Ma solo io e Max? Ma non è... Non dai, no, dobbiamo coinvolgere un po' di gente, a meno che Max non intendesse qualcos'altro, e a quest'ora non si ci può dire. Ci sono i bambini, come dico sempre, ci sono i bambini. Allora, per favore, cerchiamo di mantenerci calmi, perché le pazzie che voglio sentire da voi... Ce n'è già una. La voglio sapere subito. Sì, guarda, è in linea. Pronto, c'è Patrizia. Sì, sono io. Patrizia, benvenuta. Ti sento lontanissimo. È perché siamo lontanissimi. Sei a Roma, noi siamo a Milano. Senti una cosa, ti volevo raccontare la mia follia di adolescente. Sì. Stabilimenti balneari chiusi nella riviera a Chiavari, riviera di Levante, quando avevo 12-13 anni. Io e una mia amica abbiamo visto una petroliera, sì, ancorata all'arco. E l'avete rubata? Magari. Ci è andato bene che non hanno rubato noi, perché siamo anche salite sopra. Sulla petroliera? Sulla petroliera. Poi, quando eravamo lì insieme con tutti questi omoni, sì, oddio, un po' di paura l'abbiamo avuta. Però, perché c'erano tutti i marinai intorno che... Tutti i marinai intorno, tutti che ci guardavano, però erano gentili, erano evidentemente pater familias pure loro, però per dire che cosa ti può portare la gioventù. Poi quando sei andata a casa cosa ha detto papà? Cosa hai fatto oggi? Io tu hai detto... non gliel'ho mai raccontato. No, potevi dire sono uscita con la marina. Sospeso lì. Comunque guarda, io dico, delle volte veramente c'è Santa Pupa che ti protegge. Già, perché potevate perché essere, no, già tra tratta delle bianche. Sì, se uno ci pensa col senno del poi, veramente è stato il massimo dell'incoscienza. E tu non hai fatto poi altre pazzie? Come questa? Ma anche peggiori. Non mi va di parlarne. Ah, vabbè, allora ti intervisteremo a microfoni spenti, così, okay, ci racconti queste cose. Buon lavoro e grazie della compagnia a te che mi fate. Grazie, ciao, Patrizia, ciao, ciao. Io penso che Patrizia abbia delle cose interessanti nel cassetto che non tira fuori, perché si capiva. Comunque, invidia massima per la petroliera non ce l'ho, però ho la camionetta dei pompieri, quella ce l'ho. No, racconta, sei andata sulla camionetta dei pompieri? Sì. E cosa hai fatto? No, mi hanno dato un passaggio, ero con delle amiche, eravamo ragazzine, dovevamo andare in un posto sconosciuto, ci eravamo un po' perse e ci hanno portato i pompieri. Con la sirena accesa, spero. Non me lo ricordo, no, credo di no. Però furono molto gentili. Quindi i pompieri ce li ho, la petroliera mi manca. Bene, i carabinieri manca poco, comunque. Quelli mi porteranno via definitivamente. E con la sirena accesa. Vuoi sentire cosa è successo a Fiorello? Ma magari. Ecco, ascolta. Chi va in Ibiza? Solitamente ci vanno quelli che... Ci presentiamo al check-in, arriviamo i primi perché io devo essere puntuale. Pronto? Oh Fiorello, dove vai in vacanza? Formentera, tutto bene? Sì, col check-in, tutto per l'album, già le macchine fotografiche, quelle lì, perfetto. Oh, dietro di noi comincia ad arrivare tutti quelli, nessuno andava a Formentera, andavano tutti a Ibiza. Vi potete immaginare chi c'era? Tutti piercing, c'era gente che aveva piercing, gli partiva da qui e gli entrava da questa parte, c'erano addirittura gente col piercing a spiedino, cioè erano tre che camminavano, tre amici così che c'era. Se vuoi veramente essere pazzo devi andare a Ibiza, altrimenti cosa fai? Tu sei stata a Ibiza? Sai che mi manca ancora, e però prima o poi voglio farlo. Cioè, ci sono delle cose che non ho mai fatto, sì, ma non mi arrendo, e prima o poi andrò a Ibiza. L'ideale sarebbe andarci con Sandy Martin, cioè, è come visitare Berlino, non so, con ci andrei in Alfred questo Berlin momento, cioè, si presentasse qui io direi ciao a tutti e partirei con lui, andrei a Ibiza con lui. Non puoi, dobbiamo finire il programma. Accidenti, ma mi fai perdere questa occasione, se arriva? Guarda, è più probabile che tu venga divorata da un coccodrillo entro le 5 piuttosto che anch'io si materializzi qua Sandy Martin. Non lo temo anch'io. Comunque l'ho visto qualche anno fa, era venuto ospite in un programma, sta bene. Sei in ottima forma, per questo dico che ci andrei ancora a Ibiza. Lo invidio perché è un uomo che non ha mai lavorato in vita sua. Senti, un genio. Volevo dedicarti una cosina. Sono pronto. Perché non si è pazzi solo d'estate, cara no, Marta Cagnola. No. Si è pazzi anche d'inverno. La Cagnola ha cominciato a ridere e e bisogna fermarla, perché non perché vi ho fatto sentire Last Christmas a pochi giorni da Ferragosto, che quello è il minimo, cioè veramente niente, sono pur sempre un figlio del situazionismo, ma dovete sapere che Marta Cagnola viene spesso, adesso raccontiamo i fatti nostri senza vergogna, viene spesso a casa mia quando faccio i famosi party alla, esatto, Maison La Branca. Sì. Io sono una presenza fissa da ormai tantissimi più anni. Più del divano, sì, lei sì, è sempre lì. E a Natale c'è la festa più grande di tutto l'anno, naturalmente, quella in cui possono fare quello che vogliono, perché ci sono delle regole precise per venire a casa mia. Non si può fare questo, non si può fare quello. A Natale si può fare tutto. E finiamo sempre la festa guardando questo video e facendone l'analisi. E ogni volta si scoprono degli straordinari particolari nuovi, e quindi io sono qui che sto ridendo da sola, perché solo io so il vero significato della Christmas. Ve ne potremmo parlare per ore. Ma preferiamo di no. Diciamo soltanto che sono molto pazzi quelli del video, perché sono lì che vanno in vacanza sulla neve, si lanciano le palle di neve. Però visto che io lo consiglierei a tutti di guardarselo, perché tanto ormai con YouTube è possibile, anche perché è un video bellissimo. Beh, in insomma, questi giorni comincia a fare termini, un po' caldo, bellissimo. E quindi può rinfrescare, perché ormai non siamo più abituati al caldo, e davvero secondo me in tanti si sono dimenticate delle chicche che prevede la visione di questo video. Dovrebbero ripassarlo tutti. Certo, e la domanda che ci poniamo ogni anno è: ma ha fatto bene la bionda a lasciare George Michael per mettersi con Andrew Ridgely e regalargli la spilla che aveva ricevuto da George Michael? Non lo sapremo mai. C'è un ascoltatore, c'è Marco, pronto? Pronto. Marco, ciao. Ciao, ciao. Ma tu l'hai mai visto il video di Last Christmas? No. Ah, ti manca qualcosa nella vita? No, ne faccio cammino, dai. Ma no, guarda, prossimo Natale vieni a casa e te lo facciamo vedere. Senti, allora, tu hai fatto qualche pazzia estiva? Ma pazzie estive se ne fanno tante. Però una che mi ricordo, come ho scritto nel messaggio, che ricordo con tenerezza, perché avevo 10 anni. Cosa hai fatto? Sì. No, noi in vacanza andavamo sempre a Carpegna, che è un paese in provincia di Pesarobino, in montagna. Sì. E poi è una frazione vicino Carpegna. E noi passiamo l'intera estate in questo campetto a fianco a questa chiesetta, e regolarmente i pochi turisti che c'erano parcheggiavano sempre l'auto in quel campetto. Finché un giorno mi sono stancato e ho centrato tirando una bella pallonata contro una di queste macchine, sì, e colpendola, ma non mi ero accorto che c'era il proprietario vicino e c'era mia madre vicino. Il pallone può andare dove vuole, oppure si vedeva che l'avevi fatto apposta? No, l'avevo palesemente fatto apposta. Vabbè, dai, in Inghilterra sta succedendo di peggio sulle auto, non preoccuparti. Sì. Ma l'auto ha avuto dei danni, ha subito dei danni? Non credo. Però tu sì, perché sei stato preso a schiaffi, penso. Sì, sono stato subito ritirato nella mia cameretta e per 2 o 3 giorni non mi ha fatto uscire di casa. Vabbè, dai, succede anche al militare, ti hanno messo praticamente in consegna. Dai, non preoccuparti, comunque come pazzia è abbastanza accettabile. Noi pensavamo che avessi ballato nudo sui tavoli di qualche locale per religiosi, queste cose che si fanno normalmente d'estate. No, tante grandi pazzie, però quella che anche se piccola, ripeto, la ricordo con tenerezza, perché erano degli anni veramente belli. Vabbè, l'hai condivisa con noi e anche noi stiamo condividendo questa tenerezza, vero Marta? Sì, anche perché questo fa capire che da piccoli si impara non a non fare queste cose, ma si impara a farle di nascosto. Bisogna fare di nascosto, se no non è una pazzia. Vabbè, ringraziamo Marco, c'è un altro messaggio per te. Cara Marta, Sandy Marton... Sì, voglio sapere tutto. Il 20 agosto... Dov'è? Io subito scorro. A Verbania, al Kursaal di Verbania. Ragazzi, 20 agosto cosa dobbiamo fare? Noi andiamo al Kursaal di Verbania. Io sono bloccato qua, purtroppo non posso venire per contratto. È una scusa. Per contratto, sì, lo so, è una scusa. Anche non mi vuoi portare a Verbania. Il concerto di Sandy Marton è fatto di 3 pezzi. Una volta che li ha finiti... ma li so tutti, li rifà da capo e noi li riascoltiamo, dai. Vabbè, sembra un concerto di Marco Mengoni. C'è Giovanni da Bergamo. Pronto, Giovanni? Pronto. Ciao Giovanni. Salve, chiamo da Bergamo, però adesso sono a Torino con il camion, perché sto guidando il camion. Stai guidando sempre con l'auricolare, specifica, perché poi sai, i vigili sono all'ascolto. Certo. Bravo. E la tua pazzia qual è stata? La mia pazzia sarebbe quella di andare a vivere negli Stati Uniti. Come mai? Perché? Perché sono già stato a giugno e sono andato a trovare anche Mario Platero. Ah, straordinario! Beh, il nostro Mario Platero, un'istituzione. Infatti, l'ho conosciuto di persona, è una cosa che non mi sarei mai aspettato, però è successo. Mario Platero è davvero ci racconta, e noi viviamo gli Stati Uniti tramite lui. Io ho già un camionista che si trasferisce negli Stati Uniti, me lo immagino come, non so se ve lo ricordate, quel telefilm di qualche anno fa con BJ McKay che faceva il camionista con la scimmietta che girava per gli Stati Uniti con questo enorme camion straordinario. Sì, ma Giovanni, tu se vai negli Stati Uniti non fai il camionista? No, farei ancora questo lavoro, ma lo farei là però. Non straordinario, guarda, dai, con quelle strade favolose. Tanto c'è un posto di lavoro libero negli Stati Uniti, Presidente della Presidente degli Stati Uniti, perché fra un po' tra un po'. Ci sarà la sede vacante, mi sa che lo mandano via. Ma hai già intenzione, cioè hai già idea di quale città sarà la meta del tuo trasferimento? Ma a me piacerebbe l'Arizona. Ah, l'Arizona. Bello, bello, mi piace. Appoggio la decisione di trasferirsi a fare il camionista in Arizona e quasi quasi comincio a pensarci anch'io, anche se purtroppo ho solo la patente B. Però puoi sempre fare la scimmietta, guarda, non preoccupare. Grazie Giovanni, mi raccomando, facci sapere se parti, magari ce lo dice Mario Platero. C'è qui con me Giovanni da Bergamo. Certo. Senti, siamo quasi alla fine del primo blocco. Come ti sei trovata? Non lo so, è strano perché io ho quest'ansia di controllo, sono ospite, non so cosa succede, mi viene l'ansia, non sono capace. Stai tranquilla, guarda, sono tranquilla. Fai una pazzia comunque. Se dopo vuoi Last Christmas non mi aspetta ancora più ti è niente piaciuto? Di clamoroso, tantissimo. Ah, ti è piaciuto. E senti, ti piacerebbe magari riascoltarlo? Tantissimo, che bello. E secondo te io te lo faccio riascoltare? Beh, Last Christmas bisogna sempre ascoltarla due volte, lo sai benissimo. È vero, perché anche il video lo vediamo due volte. Certo. E allora via. Ma anche aiuta, perché è un'estate un po' fresca, viene voglia di mettere il pellicciotto. A me viene sempre voglia di Last Christmas. Allora, a me viene sempre voglia, Marta di Cagnola. Last Christmas. Ah, ecco, non dire queste frasi. Lo sai così che lasciando. Io casco sempre nei doppi sensi, guarda, senza accorgermene. Comunque dovete sapere che a casa, poi quando vediamo questo video, c'è gente che si lamenta. Ma io non capisco assolutamente perché, infatti l'anno dopo non viene più invitata, giustamente. Ma loro tornano lo stesso. C'è la borsa, ma quella vera, non quella che porti tu. Borsa. La bella estate. So, tu sei qui da sempre in questa radio, vero? Quasi. Non sono arrivata nel marzo del 2000, quindi pochi mesi dopo che ha aperto Radio 24. Non so se abbiano mai passato questo pezzo prima di oggi. Credo di no, un gran classico comunque, devo dire. Come Corona, voglio dire, Corona è tutto, è veramente, cioè, il simbolo della pazzia, il ritmo della notte. Tu devi ballare fino a luna di notte, poi crolli naturalmente, e il giorno dopo dici come siamo state pazze. Come siamo state pazze, sì, abbiamo ballato fino a luna. Fino a luna, io mi ricordo era il 94, quando c'era questo pezzo, e ti sorpassavano le macchine, tipo, non posso fare i nomi delle macchine, e con questo pezzo ad altissimo volume che pompava, e tutte avevano dietro questo adesivo, non so se te lo ricordi, ve lo ricordate voi, ditemi, 800 24 00 24, l'adesivo dei pazzi, e c'era questo qua verde, un pazzetto verde che sembrava stesse vomitando, a indicare che il tipo al volante guidava malissimo perché era troppo spericolato. Wow, ma non te ne ricordi? No, io quell'adesivo lì non me lo ricordo. Eppure nella zona Cremascolo di Giano andava molto. Da noi in Brianza invece forse non era. Siamo molto lontani io e te. Abitiamo molto distanti. C'è un ascoltatore. Pronto, Luciano? Buonasera o buon pomeriggio. Guarda, quando è estate siamo pazzi, non esiste più l'orologio, per cui puoi dire anche buon mattino. Qualche giro dell'orologio l'ho fatto anch'io, nel senso delle 24 ore continue a ballare in giro, sì. Ma solo io ho fatto il giro dell'orologio al pronto soccorso, ma che vita orrenda che ho avuto. Ti porteremo in discoteca a ballare, a fare il giro dell'orologio, ti portiamo noi. Grazie. Anche ancora adesso, nonostante i miei 50, vi porto tranquillamente. Comunque, non era questo, lo scherzo riguarda un po' di anni fa, riguarda un po' di ventina, trentina d'anni fa, per dire la verità. Sì. Avevo 17 anni, si usciva d'abitudine in gruppo a Gorizia, da noi si diceva in clapa, cioè in compagnia, ragazze e ragazze, e il papà di una di queste ragazze che usciva con noi era un maniaco dell'automobile. Ah, di quelli che di la quelli pulisce, che... la cura? Di quelli che con lo straccetto sì. ogni 5 minuti era a lucidarla, a tenerla in ordine, una Ford Taunus, mi ricordo ancora, color azzurrino. Sì. E siccome ogni volta che ci si avvicinava col pallone alla macchina arrivavano regolarmente delle secchiate d'acqua, sì. che schifo non faceva perché era caldo, ma però erano comunque lo stesso fastidiose, una sera verso il tardi, verso le 11:30, mezzanotte, erano tutti a letto, siamo andati io e altri un paio di amici, gli abbiamo smontato il copricerchione, che allora erano quelli in lamierato. Abbiamo chiuso tutti i buchi del cerchione con del nastro adesivo, abbiamo spalmato del grasso industriale, conficcando dentro il grasso piuttosto denso delle palline d'acciaio. Ma neanche Ocean's Eleven, cioè un piano diabolico. Assolutamente, da amici miei. Sì. E questo, ogni volta che metteva in moto la macchina, che la forza centrifuga faceva partire le palline, si era tin tin tin tin tin tin. E impazziva il povero uomo. Cioè. Assolutamente sì, ha fatto il giro di non so quanti meccanici per scoprire, poi quando l'ha scoperto che... Che eravate stati no, voi? Non le lascio solamente immaginare la scena, sembrava l'orso Balù inferocito che ci inseguiva come pazzi. E voi portate... Avete ancora le cicatrici delle nerbate che avete ricevuto poi sulla pubblica piazza? No, a dire la verità, aveva cominciato a lanciarsi le castagne di ipocastano, perché la via dove si abitava era alberata con degli ipocastani, perché cadevano queste castagne matte, questi ricci, e se li tirava dietro. Vabbè, fa niente, dicono che siano un preservino contro il raffreddore. Assolutamente sì. Beh, vabbè. Questo è uno dei tanti, eravamo un po' pazzarelli. Dico che seguivamo un po' la via di amici miei. Beh, comunque anche un altro di molto divertente sempre in quel periodo. E beh, comunque è una via molto, come si dice, consigliabile, raccomandabile. Grazie a Luciano. Adesso però, prima ho detto Marta sulle mani quando ballavamo YMCA. Sì. Adesso prendi le manine, le metti sotto le ascelle. Sì. Così. Uh-huh. Ecco, e fai 1 2 3 via. Questo è il ballo del qua qua e di papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Mamma papero papà con le mani qua qua qua e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piega un po', poi scodinzola così. Perché? Perché nell'81, anzi no, nell'82, perché il ballo del qua qua in Europa esplose nell'81, la danse des canards si chiamava in Francia, per esempio, così, e in Italia esplose nel dicembre dell'81, quindi nell'82 padri di famiglia, sacerdoti, avvocati, li beccavi che ballavano il ballo del qua qua con le mani sotto le ascelle, quindi dicevano come siamo pazzi, quack quack. Io facevo le scuole elementari, quindi ero giustificata, comunque sì, lo ballavamo. Faccio due conti, come può fare le scuole elementari nell'82? Cioè è impossibile. Ma certo, facevo le scuole elementari nell'82. Eri già laureata nell'82, dai, no, avevi già due lauree, per favore. No, facevo le elementari, sì, confermo. Ecco, comunque vedi, c'è anche una pazzia, questi che ballavano il ballo del qua qua, magari in un villaggio vacanza, un viaggio organizzato, era una pazzia in fondo sana, Tom. No, eh? Io sono stata una volta in un villaggio turistico e questa l'annovero tra le pazzie da non ripetere mai più. Com'è stato? È stato scioccante, non ero pronta all'esperienza. E però volevo provarla, appunto, un po' come io scrivo, ho la lista delle cose da fare almeno una volta nella vita, l'ho fatta, cielo, basta. Beh, c'è chi prova le droghe e c'è chi prova queste esperienze, certo. Forse sono più dannose, ma... Non lo so, bisogna essere molto portati, non lo sono. Vabbè, 800 24 00 24, raccontateci le vostre pazzie d'estate, come siamo stati pazzi quella volta che siamo stati al mare per 15 giorni di fila e non siamo mai stati in un albergo, abbiamo dormito nelle catacombe, nelle palafitte, come si chiamano quelle cose? Io non ho frequentazioni con questi ambienti, quindi non so. No, io posso, non so, quella volta che siamo stati 15 giorni al mare e siamo tornati più bianchi di quando siamo partiti. Perché pioveva sempre. Perché non siamo mai stati in spiaggia. Ah, anche questa è una cosa. Questa è un'altra cosa. Perché siamo stati sempre svegli di notte. Esatto, quindi andavamo in spiaggia molto tardi, stavamo svegli di notte e quindi non ci siamo abbronzati perché arrivavamo in spiaggia in tempo per l'aperitivo con la musica lounge come si usa adesso. Ah già, è vero che si usa anche questa qui, però sai, la musica lounge mi dà l'idea di una vacanza un po' fighetta. Quelli di Bologna, metti, è presente quelli di Bologna. Vabbè, sì. I bolognesi si chiamano bolognesi. Bolognesi, sì. I bolognesi hanno un atteggiamento più semplice verso la vita. E loro fanno le pazzie semplicemente con uno scooter. Sessanta, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello. Avanti, canta. Guarda, la so canta. Tutta, perché poi io questo album l'ho adorato. Lo so, è un guilty pleasure. Quanto ho ascoltato quest'album quell'estate in una popera, bellissimo, dai, no? Sai com'è, ho altri gusti musicali. Va bene. E poi non sono mai stato in Vespa, sai, perché io soffro di cervicale, potrei cadere da un momento all'altro. Vabbè, ma devi trovare qualcuno che ti porti in Vespa sui colli bolognesi, io lo sto ancora aspettando. Prima o poi puoi sempre affittarlo. In Vespa sui colli bolognesi, dovrebbero fare un servizio. Sì. Gigolò con Vespa. Sui colli bolognesi. Tu hai mai sentito questo programma che si chiama La Bella Estate? Tutti i giorni. Allora sai che a un certo punto noi abbiamo la Hit Parade. Certo, e vorrei anche sapere di che anno è la Hit Parade quest'anno. Te lo dico dopo, Hit Parade. Numero 10 Something Going On, Todd Terry. Numero 9 Hybrid, Vacuum. Numero 8 Bittersweet Symphony, Verve. Numero 7 Around the World, Daft Punk. Numero 6 Maria, Ricky Martin. Numero 5 Last Night on Earth, U2. Numero 4 Bailando, Paradiso. Numero 3 Oh La La La, Tu e Ibiza. Numero 2 I'll Be Missing You, Puff Daddy e Faith Evans. Numero 1 Do You Know What I Mean, Oasis. Step off the train on a lone at dawn, back into the home where I was born. Sun in the sky never raised an eye to me. Beh, la numero 1 ho rovinato un po', Sì, devo dire che stavo cercando di ricordarmi di quel periodo e la cosa assurda che mi viene in mente è che io tante di queste canzoni ce le ho in CD singolo, cioè si compravano i CD singoli, il che vuol dire che siamo ormai alla fine dell'era dei dischi, ma non siamo ancora nell'era dell'MP3. Io ho alcuni CD singoli di questa roba. Sei pronta? Sì. È stata la Hit Parade di un anno particolare, il 1997. E perché il 1997? Perché è stato l'anno in cui ci siamo conosciuti! Queste cose mi commuovono ancora. Lo sai, vero, che agli ascoltatori non può interessare di meno quando ci siamo conosciuti io e te, però era il 97. Ma invece sì, perché magari sulla settimana del giornale, non posso fare i nomi, sulle settimanali, quelli lì delle parole crociate, c'è scritto anno in cui si incontrarono la Branca e la Cagnola, esatto. 97. In cui la Cagnola cercò la Branca disperatamente come una stalker da fan per conoscerlo, diciamolo pure. Sì, perché è stata lei che mi ha cercato. Ma guarda, ti do subito la prova, c'è Goffredo da Roma in linea. Pronto Goffredo? Buonasera. Ciao, dici la verità, a te interessano i fatti nostri? Sì, sei assolutamente interessato. Sì, molto, assolutamente. Anzi, vorrei sapere se la signora Cagnola è nata qui dalle parti di Macherio. Vicino, sì. Perché ho un'amica di mia suocera che si chiama Cagnola di cognome. Caramba, sì. Caramba. Sì, diciamo che è un... la zona è quella, sì. Va bene. Goffredo, dici, qual è stata la tua pazzia? Io dai 12 ai 16 anni ho fatto il Boy Scout, andavamo sempre a fare dei bellissimi campeggi, Italia, io sono di Roma. Sì. Un anno durante questo campeggio continuavano a darci la mattina il latte in polvere, noi non capivamo perché dovevamo prendere questo latte in polvere quando lì c'erano delle mucche che producevano un latte squisito. Allora un giorno, stanchi di questa cosa, io e un mio amico siamo entrati in Cambusa, abbiamo preso questo sacco enorme di latte in polvere e l'abbiamo scaricato nel torrente, perché si usa fare sempre campeggi vicino a torrenti, per ovvi motivi. Un sacco intero. Non ci eravamo accorti che a falle del torrente c'era il sacerdote che ci seguiva, che stava lavando alcuni panni, il quale ha improvvisamente visto l'acqua del torrente tramutarsi in bianca in latte e ha cominciato a dire miracolo. Ah, miracolo! Volando come un pazzo per tutto il campeggio, dicendo che l'acqua del torrente dove noi avevamo fatto il campeggio si era tramutata nel latte ed era un miracolo del Signore. E noi, già non avuto il di noi non abbiamo avuto il coraggio di spiegargli il motivo del miracolo, e questo è rimasto sempre un mistero ovviamente per lui. E lui tuttora ci sta meditando, dice: ma perché non è arrivata la manna direttamente, mi è arrivato questo latte? D'altronde... Posso aggiungere una cosa? Sì, dici pure. Volevo fare i complimenti, io sono un drogato di Radio 24, dico sempre che in qualunque momento della giornata se accendi Radio 24 trovi sempre qualcosa di interessante da sentire. Sì. Voglio fare i complimenti a chi gestisce i palinsesti, le persone, perché una radio che mette insieme persone come voi, come Platero, come Cruciani, come Oscar Giannino, è veramente una grandissima radio. Appena lo vediamo, glielo diciamo. L'entità dei palinsesti, il signor palinsesti. Il signor palinsesto che è nascosto in uno studio, nascosto, non si sa. Beh, però, però io posso dirlo, sono proprio contenta di questi complimenti, grazie. Sei contenta? Io sì. Allora te li faccio anch'io. Quando ascolto il GR letto da te, guarda, mi commuovo. Devo fermarmi perché rischio di andare fuori strada. Abbiamo tempo per un'altra telefonata? Sì. Allora, Andrea dalla provincia di Pescara. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Andrea. Ciao, allora, la pazzia estiva che vi vorrei raccontare mi vede, diciamo, co-protagonista, nel senso che era il 1995. Io stavo facendo un corso di tedesco ad agosto a Vienna, sono stato quattro settimane lì a Vienna. E dei miei amici di Pescara, praticamente dalla mattina alla sera, si trovavano in spiaggia e hanno detto: ma che facciamo, che cosa non facciamo? Hanno detto: andiamo a trovare Andrea a Vienna. Quindi praticamente dalla mattina alla sera sono partiti in quattro, con una a uno, facendo questo viaggio da fino a Vienna, che non è vicinissimo. E cosa hanno fatto? Sono rimasti là. Un viaggio poi, tra l'altro, all'ultra risparmio, perché nel periodo, sai, 20 anni, giusto quelle, nemmeno gli euro avevo in tasca, avevi le lire, quindi figurati. Stiamo in chiusura, Andrea, dici subito la pazzia, qual è stata? La pazzia è stata che praticamente hanno fatto tutto questo viaggio portandosi le provviste da casa, che consistevano in pezzi di formaggio, cassette di pomodori. E avete mangiato queste cose così pescaresi? Esattamente, tramenda la ghiaccio, letteralmente, tanto che avevano trovato un campeggio che però per loro era troppo costoso. Va bene, grazie Andrea. Siamo in ritardo oggi, abbiamo parlato veramente troppo, però si va a Vienna per le Zacher, mica col formaggio pescarese. Io volevo sapere come andava a finire, ma è troppo tardi. Ce lo spiegherà. Ci sentiamo, grazie Marta Cagnola. A prestissimo, grazie. Ci sentiamo domani, il tema domani sono i souvenir orrendi. Ciao!